Questa sera faremo qualche riflessione sull'ultima parte del credo, le ultime due espressioni. Credo la risurrezione della carne e la vita del mondo che verrà. Ecco, credere la risurrezione della carne. Sarebbe ora di tradurre anche diversamente. Carne per l'ebreo vuol dire l'uomo, la donna, così come esistono in natura, con l'intelligenza, gli affetti, il cuore, i sentimenti. Per noi carne è la bistecca o al massimo la parte materiale del corpo umano, carne, ossa, pelle. Carne vuol dire uomo. Carne vuol dire donna, così come esistono, quindi vuol dire anche la spiritualità dell'uomo, ripeto, anche la sua intelligenza è chiamata carne dalla Bibbia, l'uomo come l'ha creato Dio, perché diversamente tiriamo fuori delle espressioni che non ci fanno capire tutto quello che vorrebbe dire il credo. Dunque, verso la fine del credo, noi siamo invitati ad alzare lo sguardo per vedere un po' lontano dove andiamo a finire. Fissare lo sguardo sul mio futuro, sul futuro dell'umanità, ma non solo, anche dove andrà a finire il mondo delle cose. E vi anticipo subito, non c'è la fine del mondo così come l'abbiamo in testa noi, perché Dio non ha mai creato niente e nessuno per poi distruggerlo. Dio non deve distruggere proprio niente perché fa le cose sempre bene, quindi non le deve mai rifare. Quindi ci sarà la vita eterna anche per il mondo delle cose. Noi parleremo senza nessun imbarazzo della risurrezione degli uomini e delle donne, così come esistono in natura con il loro corpo e tutta la loro spiritualità, ma parleremo anche della risurrezione del mondo, e per mondo non intendo la terra, tutto l'universo che è tuttora in grandissima e velocissima espansione. E non è un pensiero mio, lo dice Paolo Apostolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, dice: anche la creazione geme e soffre nelle doglie del parto perché vuole anche lei partecipare alla risurrezione degli uomini e delle donne, partecipare con loro alla vita che verrà. È un argomento che forse non è mai stato trattato, meriterebbe non un accenno, ma serate e serate. Perché se siamo un po' riflessivi e seri capiamo che per esempio i nostri 50, 70, 100 chili sono terra, quindi fanno parte del mondo materiale. Il corpo di Cristo risuscitato e vivo che è in cielo è un corpo che è nato dalla terra, quindi è stato preso dalla materia di questo cosmo. Cosmo vuol dire un mondo bello, fatto bene, non per niente la parola cosmetico vuol dire qualcosa per farsi belli. Noi viviamo in un mondo bellissimo fatto da Dio e Dio non lo distruggerà, ma neppure per sogno. È venuto suo figlio in terra per divinizzare l'umanità e divinizzare anche le cose della creazione. Ne abbiamo già accennato quando si è parlato della Santa Messa e questa sera vi richiamo il pensiero. Voi sull'altare portate un pezzo di pane, un bicchiere di vino e un po' d'acqua, che sono cose che esistono a questo mondo, anzi rappresentano un po' il mondo, sono la sintesi del mondo. Per avere un pezzo di pane ci vuole la terra, ci vuole il sole, le stagioni, la pioggia, il caldo, il freddo. La stessa cosa per avere un bicchiere di vino. E ci vuole anche il lavoro dell'uomo. Quindi tutto concorre per avere un pezzo di pane e un bicchiere di vino sulle nostre tavole e anche sull'altare. Bene, per la potenza dello Spirito Santo, per la parola della consacrazione che è parola di Cristo, quel pane e quel vino diventano Cristo risuscitato e vivo. Quello è un segno, una dimostrazione non scientifica ma di fede, che in ogni messa noi vediamo dove va a finire il mondo delle cose, vedendo dove va a finire quel pane e quel vino. Il mondo delle cose diventa Cristo vivo, risuscitato, e questo sarà per tutto il mondo e per tutta l'eternità in eterno. Dunque, dove va a finire il mondo degli uomini, delle donne, il mondo delle cose? Ma dove volete che vada a finire? In Dio. Le cose e le persone sono uscite da Dio, più precisamente bisognerebbe dire dal cuore di Dio, perché sono l'oggetto del suo amore, le ha fatte, ci ha fatti con amore infinito, con la gioia di darci la vita. E uscendo dal cuore di Dio le cose fanno il loro viaggio e torneranno nel cuore di Dio. Tutto il mondo dell'umanità e delle cose sarà divinizzato, cristificato, diventerà Dio, diventerà Cristo. Ecco allora questa terza parte del credo, che non fa altro che applicare a noi e al mondo la seconda parte del credo. Stasera si parla della risurrezione dei morti. E diciamo, come è morto ed è risuscitato Gesù Cristo, così ognuno di noi morirà e risusciterà, e come Cristo è salito al cielo, anche noi saliremo al cielo. Cristo è su bello, il più importante dopo il Padre, perché questo vuol dire seduto alla destra, è il primo dopo quel tale che sta seduto in alto al centro. E noi dove andremo? Andremo a finire in Cristo, seduti alla destra di Dio, ossia andremo a prendere possesso del regno preparato per noi prima ancora che Dio creasse il mondo. Quindi, essendo figli del Re, di Dio che è il Re dell'universo, saremo persone che vanno a regnare, quindi non dei poveretti che vanno su a fare non so, la polvere ai banchi o a spazzare i pavimenti. Queste cose non è che siano da ribattere per il gusto di dire siamo grandi, grossi e belli, ma perché bisogna stare con la parola di Dio, che non dice entrerete in paradiso lì nel posto degli stracci o delle scope. Venite benedetti del Padre mio a prendere possesso del regno. Noi andiamo su a regnare, va bene? Perché siamo figli del Re, del proprietario del paradiso. Quindi alle volte si parla del paradiso con quella umiltà rispettabile, commovente, ma alle volte si dicono delle autentiche sciocchezze. Perché? Perché il Vangelo dice diversamente. Si va in paradiso a regnare. Diceva Gesù agli apostoli, voi siederete su 12 troni, su in paradiso, e anche noi. Per capire bene la risurrezione, la nostra, bisogna capire quella di Cristo. E cosa dice il Vangelo, la Bibbia? E qui in particolare cito la lettera ai Romani al capitolo 8. Sentite cosa dice San Paolo. Se lo Spirito Santo di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, il Padre che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Allora, il Padre Eterno ha risvegliato, ha ridato la vita a Gesù morto attraverso lo Spirito Santo, che vuol dire vita di Dio. Dio gli ha ridato la vita che aveva perso morendo, la vita del corpo ovviamente. Bene, lo Spirito Santo che ha risuscitato Gesù, dice San Paolo, abita anche dentro di voi. E al momento giusto Lui che è la vita di Dio darà al vostro corpo, alla vostra persona, perché corpo vuol dire persona, la vita di Dio, la vita della risurrezione. Quindi quello che è capitato a Cristo capita a tutti coloro che in qualunque modo hanno aderito a Cristo, sono insieme con Cristo. Ho detto già una volta qui, quando si legge la Bibbia bisogna stare attenti, perché si legge alle volte senza collocare al posto giusto i testi che abbiamo tra mano, e invece bisogna capire più o meno quando sono stati scritti. Perché? Perché riguardo alla risurrezione degli uomini, per esempio, la Bibbia fino al 300 avanti Cristo, ma qualcuno dice anche fino al 200 avanti Cristo, gli ebrei, la Bibbia, non sapevano che c'era la risurrezione dei morti. E quindi la maggioranza dei salmi sono stati scritti prima, la maggioranza dei testi dell'Antico Testamento sono stati scritti prima che Dio rivelasse agli ebrei la risurrezione dei morti. Dunque uno legge un salmo, legge un testo, dice: Oddio, non farmi morire, fa che non scenda nella fossa, perché quando uno è morto è finito, non c'è più niente. Dice: ma come mai la Bibbia dice queste cose? È stato scritto nel periodo in cui non c'era ancora questa rivelazione, questa verità. Addirittura Dio si è servito dell'invasione di Alessandro Magno, il quale nel 331 è andato a conquistare la Palestina e ha detto: adesso qui si insegna la cultura greca. E c'è stata questa commistione, questa invasione anche culturale, mescolandosi con la cultura ebraica. I greci, ricordate Platone e Aristotele, parlavano già dello spirito immortale che era imprigionato nella materia dell'uomo, tutte cose che vanno riviste, corrette e anche rifiutate in parte. Ossia, hanno sentito parlare di una vita eterna, di una risurrezione, di un qualcosa, attingendo alle culture, in questo caso alla cultura greca. Poi incominciano gli ultimi libri dell'Antico Testamento, il libro di Daniele, i libri dei Maccabei, eccetera. Poi ovviamente arriva Gesù Cristo che parla chiaro e tondo e lo manifesta con la sua avventura: muoio e risusciterò il terzo giorno e mi rivedrete e dirò: guardate qui, sono risuscitato e vivo. Perché è questo il punto culminante della nostra fede cristiana. Per credere in Cristo da quando è nato a quando è morto, non si fa mica fatica. Anch'io sono nato, anch'io riuscirò a morire per dritto o per storto. La novità è la risurrezione, ossia sconfitta la morte, si vive sempre e non c'è più morte. Questa è la novità portata da Cristo, questa è la novità della religione cristiana. Dunque, nell'Antico Testamento cito solo un paio di frasi, per esempio la constatazione della madre di quei sette fratelli che vengono ammazzati dal re Antioco al capitolo sesto del secondo libro dei Maccabei. Il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Da Dio ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, ossia preferisco osservare le leggi che salvare il corpo, la vita, ma spero di avere il mio corpo, la mia vita di nuovo da Dio. È bello morire a causa degli uomini pagani per attendere da Dio l'adempimento delle speranze di essere da Lui di nuovo risuscitati. L'ultimo di questi bambini che vengono ammazzati si sente dire queste parole di sostegno dalla madre: senza dubbio il creatore del mondo per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita. Questo è l'inizio, se vogliamo, nel 160-170 avanti Cristo, di cose dette con una certa chiarezza e anche ripetute spesso. Veniamo al Nuovo Testamento. Risurrezione della carne, ho detto, vuol dire risurrezione di tutto l'uomo. Nella Bibbia carne significa la persona umana nella sua condizione terrena, così come l'uomo esiste a questo mondo. E la Chiesa ha dovuto ribadire queste verità perché ha sempre trovato qualcuno lungo i secoli che andava a dire il contrario o a creare dei dubbi. Leggo due frasettine corte prese, la prima dal Concilio Ecumenico Lateranense IV, dell'anno 1215, tutti risorgeranno con gli stessi corpi che hanno ora, col mio corpo insomma. Il Concilio II di Lione del 1274, crediamo alla vera risurrezione di questa carne che ora è la nostra. Quindi non è una finta e io mi appoggio soprattutto su una frase detta da Gesù risuscitato di fronte alla difficoltà a credere da parte dei discepoli. Il corpo di Cristo risorto è veramente il corpo che egli aveva prima di morire e difatti c'è ancora i segni dei chiodi, del colpo di lancia al cuore. Quindi dice, ma era così quando è andato sulla croce, è finito con queste ferite e adesso qui risuscitato c'è ancora le stesse ferite. È lo stesso corpo di allora, non ne ha preso un altro, tanto per capirci. Certamente si trova anche in una condizione che non è come quella del morto sulla croce, passa per esempio attraverso le porte chiuse, ci dice il Vangelo, è rimasto vero uomo, però risuscitato con delle caratteristiche nuove e delle possibilità e delle capacità nuove, e così sarà anche per noi. Però Gesù Cristo sottolinea una cosa, toccatemi, palpatemi, io non sono un fantasma, ho carne e ossa. Questo lo dice dopo la risurrezione, per dire che la risurrezione sarà una vita concreta, ci ridarà la nostra vita migliorata di molto, con un corpo tra l'altro adatto per vivere in paradiso, perché col corpo che abbiamo qui così come è conciato non si sa che razza di paradiso potremmo vivere. Pensate, ma lo dico così senza un bambino che viene abortito, se va tale quale in paradiso, cosa c'è lì? Una manata di cellule ancora in formazione, che paradiso è per quello lì? Uno che nasce grave portatore di handicap va su in paradiso ancora con la sua carrozzella? Uno che muore a 100 anni, sordo, cieco, fuori di mente, che viene nutrito col sondino, che deve essere lavato e accudito più volte al giorno in un ospizio, va su in paradiso per continuare la vita dell'ospizio. Ma che paradiso sarebbe? Ma dirò di più. Tutti voi qui presenti e anche gli assenti di tutto il mondo, nessuno è totalmente contento di così com'è. Allora uno dice, sono un po' troppo grasso. Un altro dice, io sono un po' troppo magro e non riesco a ingrassare. Sono piuttosto robusto, avrei voluto avere un pochino più di statura. Qui, lì, là, sì, c'ho i capelli così. Io avrei voluto nascere, non so, per esempio, tedesco, sa, con i capelli biondi, non pelato come mi è successo qui. Ossia, tutti dicono, sto corpo mi va bene fino a un certo punto, ci sto dentro a fatica e non è che sia pienamente soddisfatto di me. Allora Dio dice, quando finirai la vita qui te lo cambio, ma non nel senso che non è più il tuo corpo, gli do quelle aggiustate che tu desideri per poter essere contento almeno in paradiso. Ecco allora che c'è veramente una trasformazione in meglio dei nostri connotati, ma siamo sempre noi col nostro corpo. Vi dico un paio di cose, ma non mi devo dilungare molto. In passato facevano tante storie, hanno discusso per dei secoli. Se uno veniva mangiato da un pesce, voi sapete che i naviganti buttavano i cadaveri in mare, poi si andava a pescare il pesce e un altro mangiava il pesce che aveva mangiato l'uomo, quel corpo di quello lì diventava il corpo di quell'altro lì. Che caos! Come farà Dio alla fine andare a cercare le cellule di questo che sono state di uno, di cento, di mille? Ma non è un problema, oggi sappiamo dalla scienza che il nostro metabolismo, ossia il cambiamento degli elementi del nostro corpo, ogni 6-7 anni, e qui dipende, da giovani ci abbiamo un cambiamento più veloce, da vecchi un cambiamento più lento, ogni 6-7 anni noi cambiamo tutta la materia del nostro corpo, tutta. Qualcuno mette dei dubbi sui neuroni, ma sembra che si cambino anche quelli. Ma continuiamo ad essere noi. Io ho quasi 70 anni, avrò cambiato la materia del mio corpo completamente, pezzetto alla volta, ma un cambio continuo, almeno 10 volte. Io non ho più la materia del corpo col quale sono nato da mia madre o col quale sono andato a fare le medie o gli studi di teologia. Tutta quella materia lì l'ho già cambiata e ne ho assorbita attraverso il mangiare e il bere dell'altra. Però sono sempre io. Allora non stiamo lì a vedere se il corpo sarà quella carne lì che ci avevo io, ma quella che ci avevi tu, hai continuato a cambiarla e poi l'avranno ricoltivata gli altri. C'è uno scrittore di quelli molto intelligenti, ma che scrivono sciocchezze, diceva: il nostro corpo servirà come concime per coltivare i carciofini che mangeranno i nostri nipoti. Vabbè, allora conviene non fare le cure dimagranti, ma non è quello lo scopo della nostra vita. Andiamo avanti e diciamo qualcosa di più serio. A San Paolo hanno chiesto, senti, tu dici che c'è la risurrezione dei morti, allora, come risuscitano sti morti? Con quale corpo risuscitano? E non meravigliatevi se San Paolo, come prima parola di risposta, dice stolto, ossia questa domanda è proprio stupida, però risponde lo stesso a modo suo. Dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 15, qualcuno dirà: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore, e quello che semini non è il corpo che nascerà. E fa l'esempio: semini un seme di zucca, ti viene su una zucca grossa così, ma guardando il seme non riuscivi a fantasticare cosa sarebbe nato da quel seme. Quindi una ghianda la guarda e dice: ma è impossibile che da una ghianda nasca una quercia che può pesare delle tonnellate, no? Eppure è nata ed è la continuazione di quel seme lì. Allora dice, qui si semina la nostra persona umana così com'è, e la vita eterna, la risurrezione, sarà la nostra vera continuazione, ma ci sarà una differenza, come tra una ghianda e una quercia, come tra un chicco di grano e una spiga, come un seme di zucca e la zucca. Però la vita del paradiso sarà la mia vita che continua per tutta l'eternità. Poi saremo liberati dalla schiavitù, uno vivrà anche senza respirare, non c'è bisogno del cuore che pulsa, se no dopo 200 anni si stanca e si rompe di nuovo, non c'è bisogno di mangiare, di bere. Tutte le cose di cui godiamo qui in terra e che sono la nostra croce, non le avremo più in paradiso, perché sono la nostra croce. Se non mangiassimo, non bevessimo e qualcos'altro, potremmo fare a meno di andare a lavorare, gente. Potremmo fare a meno di mettere su pranzo e cena tutti i giorni, lavare piatti, far quello. È una schiavitù, se vogliamo, se non respiriamo per 2-3 minuti, se non arriva l'ossigeno alla testa. Abbiamo anche qualche caso famoso adesso di persone all'ospedale a cui è mancato l'ossigeno perché gli è mancato il fiato o la circolazione del sangue. Dice, però siamo proprio soggetti legati alla materia, non schiavi, ma comunque immensamente dipendenti. Se ci liberassimo staremmo meglio. Ecco, il paradiso sarà la liberazione anche da tutte queste cose che ci pesano addosso e di cui sarebbe bello farne a meno. Allora, dice qui, tu semini un corpo animale e risorge un corpo spirituale. Mi fermo solo su questa frase. Cosa vuol dire corpo animale? Un corpo che vive perché ha un'anima, non vuol dire una bestia, un'anima. Noi siamo degli animali ragionevoli. Risorge un corpo spirituale, ma se è spirituale non può essere più di materia. Per le nostre teste che parliamo cultura greca, sì, ma nella Bibbia spirituale vuol dire che riceve e ha la vita dallo Spirito Santo, non è il contrario di materiale. Tu qui vai sottoterra perché hai perso la vita che ti veniva data dall'anima, e quindi è una vita che ha termine. Sarai risuscitato e avrai la stessa vita di Dio che non finisce mai, la vita di Dio che si chiama Spirito Santo. Bene, quando ne volete sapere di più, mi chiamate. Andiamo avanti. Siamo stati immersi con Cristo nella morte per mezzo del battesimo e noi risuscitiamo con Lui per la potenza di Dio, per la potenza dello Spirito Santo. Allora, la nostra partecipazione alla risurrezione di Cristo passa attraverso tre tappe. È un discorso un po' materiale, ma è proprio per tirarci fuori dal vago. Allora, la nostra partecipazione alla risurrezione di Cristo inizia nel battesimo. Noi siamo già figli di Dio, nati dal Padre Eterno nel battesimo, e la vita di Dio è la vita eterna, è la vita della risurrezione, per cui abbiamo incominciato a vivere la vita della risurrezione il giorno del nostro battesimo. Quindi in parte siamo dei risuscitati già adesso. Poi questa vita della risurrezione, questa partecipazione avrà un momento importante, farà un grosso salto in avanti il giorno della nostra morte fisica, e perché entreremo in paradiso, e poi ci sarà ancora un dopo, un qualche cosa. Questa vita di risuscitati totalmente si manifesterà alla fine. Leggo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 5. Verrà l'ora, dice Gesù, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio e usciranno fuori. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita eterna e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna eterna. Quando è questo ultimo giorno? Perché il Vangelo di Giovanni dice: e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E qual è l'ultimo giorno? L'ultimo giorno della mia vita, ossia muoio e risuscito immediatamente. L'ultimo giorno della storia dell'umanità e del mondo? Ma qui ci si divide su varie teorie. Quella antica è che tutti aspetteremo alla fine per risuscitare tutti d'un colpo, per cui in paradiso, per singolare privilegio, di risuscitate c'è solo la Madonna oltre Cristo, Figlio di Dio. Gli altri hanno lasciato le ossa qui in terra, non per niente andiamo in giro con le reliquie dei santi. È una lettura faticosa, perché bisogna faticare per leggere, fare i confronti e cercare la verità senza pregiudizi e senza forme così rivoluzionarie che poi non servono né a noi e neanche a voi. E si dice da un pezzo, e io ci credo e sono di quell'avviso, che la risurrezione, al di là del privilegio della Beata Vergine Maria, che io non glielo tocco, non è l'attesa di secoli e di secoli. Io dico, se tu fossi al posto del Padre Eterno, lasceresti lì morto il corpo di un tuo figlio qualche milione di anni? Poi io avrei una fretta matta di vedermelo lì tutto intero e di prendermelo tra le braccia. Anche voi, penso, e anche il Padre Eterno, ve lo dico io. Il cardinale Biffi, che adesso è pensionato, egregio emerito, dice anche lui che non era poi uno di quelli più lanciatissimi verso le novità. che la risurrezione avviene al momento della morte. E non dobbiamo mica scannarci, ognuno dirà una cosa di questo genere rispettando l'altro che pensa diversamente. Comunque, al di là della parola di Dio, a me piace, per quel poco che conosco Dio, mi sembra che piaccia anche a Lui, di non lasciare dei figli lì a mezza strada per dei secoli per tirarli fuori dalla tomba dopo migliaia di anni. Non capisco che senso abbia, soprattutto per uno che ama immensamente questa creatura. Faccio un esempio casalingo: ci sono delle mamme, soprattutto quelle giovani, che quando hanno il primo bambino hanno bisogno di qualcuno con cui giocare, giocano con il bambino, e se non si sveglia vanno a svegliarlo perché sono stufe di vederlo lì che dorme, e loro friggono, no? Dopo magari con gli altri figli si vorrebbe che dormissero giorno e notte. Così anche Dio ci vuole tanto bene che non ha senso un'attesa per venire fuori dalle tombe dopo milioni di anni. Lascio lì la cosa in sospeso. L'importante è venire fuori, andare in paradiso e stare benone. C'è una seconda parte del tema di questa sera che è la vita eterna. Credo la vita eterna. Vorrei far notare che noi nel credo non diciamo io credo la morte eterna, credo l'inferno, no. Si dice credo la vita eterna, credo il paradiso, quindi il nostro credo è positivo. E allora diciamo, ma perché Dio ci vuole vivi? Perché Lui è la vita, perché Lui ci ama. E la prima cosa che vuole un genitore, e il Padre Eterno è un genitore, per un suo figlio è questa: io desidererei che mio figlio non morisse mai. Noi non siamo in grado di impedire la morte di un figlio, ma il Padre Eterno sì. Quindi il passaggio da questa vita attraverso la morte non è la morte, è un passaggio, un venire alla luce verso la vita del mondo che verrà, la vita eterna. Quanti credono alla vita eterna, a una vita dopo la morte? Ma guardandoci attorno, anche tra quelli che praticano varie religioni, si può dire, credo che la statistica è ancora abbondante, che i tre quarti delle persone che vivono sulla faccia della terra non credono a una vita dopo la morte, non credono alla risurrezione, non credono al paradiso. Dico i tre quarti. L'Istituto di Statistica Agnelli, 15 anni fa o anche più, ha fatto uno studio di allora sull'Europa, i primi stati che incominciavano a creare questa Unione Europea, e sotto l'aspetto religioso, parlando della risurrezione o di una vita comunque dopo la morte, diceva che solo il 43% degli italiani 15-20 anni fa credevano che c'era qualcosa dopo la morte. Per dire, non mettiamo dentro i cristiani cattolici tutti in blocco, perché più della metà non ci credono. E perché non ci credono? Per colpa di noi preti, frati e vescovi, che parliamo troppo poco della risurrezione, della vita eterna e del paradiso. Io ogni tanto mi infurio anche con i miei fratelli preti, perché sono capaci di parlare per settimane e mesi delle cose che, se anche non si predicano, il mondo va avanti lo stesso. Ma bisogna predicare la risurrezione, perché altro è camminare verso una tomba dove finisce tutto, altro è camminare verso la vita nuova del mondo che verrà, dove si andrà in paradiso a stare in compagnia con Dio. È tutto un altro andare. Il primo è un traguardo di morte, quindi si frenerà per arrivarci più tardi possibile. E mi sembra che, esagero, ma quasi tutti i cristiani frenano per non arrivare alla morte. Il che vuol dire che una fede proprio vera, efficace, della vita del mondo che verrà, del paradiso, non è poi così da dare per scontata. quando anche si dà per ipotesi ci sarà il paradiso, si dice quella frase sempre intelligente, fine. Beh, senti, tanto il paradiso non scappa mica, intanto stiamo qui. Però è un atteggiamento di persone che non hanno la cognizione e l'esperienza e la voglia. Voi sapete che nella messa si dice annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, perché si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Sono espressioni beata speranza, ossia una speranza che mi fa gioioso. Il prefazio della festa dei Santi dice: oggi contempliamo la Gerusalemme celeste che è nostra madre, il paradiso. Noi pellegrini su questa terra affrettiamo il passo per arrivare in paradiso. E ogni tanto pianto lì la messa a metà, dico: scusate, quanti di noi qui affretta il passo per andare in paradiso? Tutti si mettono a ridere, divertiti, come per dire: ma siamo mica scemi, allora strappate via la pagina dal messale. Ma è una cosa vera. Il cardinale di Torino, vostro diocesano qui, quando stava ancora bene di salute, diceva in una sua lettera pastorale: i nostri giovani, i nostri vecchi, la nostra società qui a Torino purtroppo registra tanti suicidi, tante forme di overdose di droga che sono poi ricerca di suicidio, e gente che va a sfracellarsi con la macchina, che spesso è una cosa voluta perché è una forma di suicidio, e via di questo passo. E diceva: perché tanto spirito di morte alleggia qui attorno a noi nella nostra città? E diceva: è anche colpa nostra, di me cardinale, di voi monsignori e preti, perché abbiamo predicato troppo poco la risurrezione dei morti, la vita eterna e il paradiso, per cui questa gente, vedendo come traguardo della loro vita unicamente una tomba, dicono: tanto morire adesso o morire fra 40 anni soffrendo ancora per dei decenni senza scopo, tanto vale togliersi la vita subito. Bisogna predicare la vita eterna, la risurrezione dei morti. Oggi siamo molto deficitari su questo. Dunque la vita eterna è già incominciata. La Bibbia ci dice: noi già fin da adesso siamo figli di Dio, quindi figli della risurrezione, dei risuscitati. Come un bambino nell'utero materno è già un uomo in formazione, poi deve venire alla luce, poi deve crescere ancora, ma è già iniziata la sua vita. Così nel battesimo è già iniziata, avviata la nostra vita di risuscitati, di destinati al paradiso. E poi c'è un altro fatto, qui ne parleremo se Dio ci darà tempo e grazia. La messa, che è il centro e il vertice della vita cristiana, è il sacramento della risurrezione. Io ho lasciato lì anche alcuni nastri, se qualcuno voleva impararsi la storia, anche in preparazione della Pasqua. Cosa vuol dire? Niente, molto semplice: si va a messa per mangiare Gesù Cristo risuscitato, che viene dentro di noi per lasciarci addosso che cosa? Perché venga a depositare dentro di noi la sua risurrezione, la sua vita di Dio, la sua vita eterna. Questo è lo scopo della comunione. E l'ha detto lui, cito il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, chi fa la comunione, ha già adesso la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, che non sappiamo quando sarà questo ultimo giorno. Ecco, allora, questa vita eterna ora la viviamo allo stato embrionale, come vita nascosta con Cristo in Dio, scrive Paolo nella lettera ai Colossesi. Per intanto la si vede poco, o la si vede solo quando viene manifestata attraverso il nostro modo di vivere all'esterno questa fede. quando si manifesterà Cristo, allora anche noi appariremo figli di Dio svelati, ossia fino adesso siamo immersi in Cristo, come non si vede Cristo così non si vede questa vita nuova che il cristiano ha dentro, ma c'è. E come dico, ci credo anche perché io la vedo uscire all'esterno dalle persone attraverso i loro comportamenti. Parlando del cielo, del paradiso, leggo una frase, un pezzetto, insomma, che può essere un po' una presa in giro di noi stessi, ma pazienza. Tornando da un funerale, spesso si dicono cose sublimi e verità indiscutibili sul conto del morto. Ora sta meglio di noi. Se n'è andato in un mondo migliore, ma nessuno vorrebbe essere al suo posto, nessuno ha fretta di entrare in questo mondo così detto migliore, figuratevi. E qui salta fuori la nostra eventuale sbagliata educazione. Il caro estinto ha perso tutto con la morte, è sotto il torchio del giudizio terribile di Dio. Forse si trova già all'inferno. Sicuramente, se non è all'inferno, dovrà fare un lungo purgatorio. Chissà quando arriverà in cielo, dove nessuno ha veramente voglia di andare. Quale cielo ci è stato presentato fin dall'infanzia? Un cielo di troni fissi di fronte all'immutabile triangolo della Trinità, cielo di santi che cantano inni e che hanno l'aureola qui dietro la testa, e eccetera. Non è che vogliamo fare, diciamo, dello spirito negativo. Certo, un paradiso così come forse è stato presentato anche a voi, a me certamente, non fa venire nessuna voglia di andarci. E allora quale meraviglia se i cristiani vivono in questo mondo come coloro che non hanno nessuna spinta per andare nel mondo dove ci sarà la vita nuova, quella del paradiso. Certo, è difficile raffigurarci la vita del paradiso, diremo qualcosa prima di terminare stasera, ma questa è una buona ragione in più per riprendere continuamente il discorso e approfondirlo, perché nella Bibbia si parla del paradiso e si parla anche tanto. Certo, la scrittura parla anche dell'inferno, ma molto, molto, molto meno di quanto parla del paradiso. Allora ci chiediamo anche quelli che ci hanno fatti dei ritiri interi sull'inferno e ci mandavano a casa terrorizzati, o delle prediche o dei quaresimali sull'inferno. Ma non potevano farci il ritiro e il quaresimale sul paradiso? Visto che noi vogliamo andare in paradiso, Dio ci ha detto: io vi tiro su in paradiso, gratis. Allora c'è da chiedersi, ma quelli predicavano la parola di Dio o erano più o meno sadici con sé e con gli altri, masochisti, di dire, e ne inventavano tante, i forconi, tutte le torture. Io penso che i servizi segreti hanno imparato le torture dalle prediche dei preti nei quaresimali. Ma santo paradiso, ma è mai possibile? Ecco, allora diciamo pure, purtroppo è più facile mettere addosso paura che mettere addosso gioia di vivere, di continuare a vivere e di arrivare in paradiso dove si starà pienamente nella gioia. Allora la Bibbia ci parla e per farsi capire deve usare delle conoscenze che abbiamo in testa noi, perché sennò è inutile che parli, non riesce ad agganciare, ad arpionare la nostra testa. Allora, ai tempi della Bibbia e in mezzo mondo anche adesso, una delle condizioni peggiori dell'uomo era la fame e la sete. Cosa ci sarà in paradiso? Se magna, si mangia, ma cibi grassi, l'avrete sentito, adesso con le diete che ci sono la gente si sente di scappare di chiesa, anche in paradiso faccio qui la dieta per andare su, eh? Cibi grassi, a quei tempi avevano pelle e ossa, magari avessero da mangiare, avessero avuto da mangiare dei cibi, e vini succulenti, quindi un gran mangiare, per un affamato il paradiso è riempire questo desiderio, questa carenza di cibo e di bevanda, ma roba buona, non quello che vanno a cercare nelle discariche delle metropoli, avrete visto tante volte anche nei nostri giorni. Poi uno dice, in paradiso è bene che ci sia la musica e le danze, perché nella festa bisogna saltare, ballare, cantare, avere la musica, e allora ci hanno messo dentro anche quello, e via con questi esempi per dire, sarà una bella festa, si sta bene, e quindi il paradiso è dove si sta bene. Ma per la verità, se poi andiamo in fondo, noi nella vita abbiamo un desiderio che è il più grande di tutti, il desiderio di sentirci amati e di amare. La Bibbia ci dice Dio è amore, e già è un indirizzo. Dio nell'Antico Testamento e nel Nuovo ci dicono qui in terra state facendo palestra, allora il più grande comandamento è ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, perché questo allenamento ti servirà in paradiso, perché in paradiso si farà questo, amare Dio con tutto noi stessi e lasciarci amare da Dio. Ama il prossimo perché in paradiso dovrai andare d'accordo e star bene anche con gli altri, non si può mica andare su per litigarsi. E via di questo passo si dice, il paradiso è la realizzazione di quel desiderio di amore dato e ricevuto che qui in terra non è mai sazio. Amore paterno, amore coniugale, amore di amicizia. L'amore si vive per amare e per essere amati. Tutto il resto serve a questo o non serve. Allora si dice, forse la Bibbia ci ha indirizzato in quella parte lì per dire, ci sono delle parabole, il regno dei cieli, il paradiso è simile a un re che fa un pranzo di nozze per suo figlio, Dio che ha lasciato venire suo figlio in terra a cercare moglie, l'umanità intera l'abbraccia tutta e dice questa è la mia sposa, se la porta a casa sua, questo è il matrimonio eterno, la nuova ed eterna alleanza di cui si parla nella consacrazione del calice. Allora per tagliar corto, perché la storia sarebbe interessante, leggendo l'ultimo libro della Bibbia, il libro dell'Apocalisse, ci viene presentato proprio in finale il paradiso come l'umanità intera, tutti salvati, sono paragonati a una bella ragazza vestita a nozze, è la chiesa del paradiso, che va incontro allo sposo per vivere l'amore per tutta l'eternità. Detto in soldini, il vivere in paradiso, la vita eterna, è fare l'amore con Dio e tra di noi sempre, sempre, sempre, senza stancarsi mai, sempre, e non un amore che a lungo andare poi stufa, ma è un amore che cresce per tutta l'eternità e non riuscirà mai a raggiungere l'infinità dell'amore che è Dio, che è il nostro partner, lo sposo dell'umanità sarà Dio in persona. Dice, ma è un amore sessuale, ma c'è di meglio dell'amore sessuale in paradiso, con tutto il rispetto per l'amore sessuale qui in terra, guai a noi. Al paradiso è il regno dell'amore, dove tutti amano con tutte le loro capacità e si sentono amati, da essere completamente soddisfatti e sazi, ossia il secchio sarà sempre pieno. Le altre cose sono secondarie. E questo non è un mio pensiero, lo dice la Bibbia. Certo, già la messa è un'anticipazione del paradiso. Se i nostri vescovi italiani avessero tradotto quello che è l'originale latino della messa del dopo concilio, con firma Paolo VI, prima della comunione, dentro nell'originale della messa, c'è appunto scritto così, traduco direttamente in italiano: beati gli invitati alle nozze dell'agnello, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La messa e la comunione qui in terra sono già una partecipazione non ancora totale, definitiva e completa alle nozze dell'agnello Gesù Cristo che viene dentro di noi, e questo venire di Cristo dentro di noi per farci diventare un solo corpo con Lui, ossia una sola persona, un solo sangue con Lui, ossia una sola vita, è già il risultato qui in terra provvisorio di quello che sarà il paradiso. Tutti diventeremo uno, tanto saremo fusi tra di noi e con Dio nell'amore. Più di così non si può dire, più di così non si può neanche fantasticare. Credo che neanche Dio potrebbe inventare qualche cosa di più, perché al di là dell'amore, al di sopra dell'amore non c'è più niente, perché Dio è amore e al di là di Dio dove volete andare. Ecco. Quindi il paradiso sono le nozze eterne tra Dio e noi, tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, questa comunità di salvati che siamo noi. Dice, non c'è l'inferno, certo che c'è l'inferno, l'esistenza dell'inferno è indispensabile, perché senza l'inferno il cielo, il paradiso, non sarebbe altro che un campo di concentramento dove si è obbligati ad andare. Allora, qui in terra ci hanno detto che siamo liberi, liberi di fare la scelta del bene o del male. Allora, qui siamo liberi, uno dice, io con Dio non ci sto, se Dio sta in paradiso io vado da un'altra parte, io con voi non ci vengo, e insomma fa tutto un suo programma di andare altrove. Arriva su con questa testa, così, queste convinzioni, e gli dicono, senti carino, in terra hai fatto l'asino e va bene, ma qui c'è un'unica possibilità, si deve andare tutti obbligatoriamente in paradiso. Dice, ma allora la libertà di cui mi avete raccontato in terra è stata una presa in giro e non ci sarebbe più niente di serio. Abbiamo già detto altre volte, Dio Padre non lascia fuori neanche uno dei suoi figli, non caccia fuori nessuno. Ma ci può essere un figlio che dice io non vengo dentro e resta fuori, e sono fatti di cronaca che conoscete anche voi. Che deve fare Dio? Lo costringe ad entrare a botte? Lo potrà esortare, gli darà tutte le grazie che volete. E io spero, ma non è che io dica lo so, sono convinto, perché qui non sa niente nessuno di certo. E dice, vedrai che Dio fa in modo che all'inferno non ce ne vada neanche uno. Allora, la Chiesa non sa e non saprà mai, finché campa su questa terra, se c'è anche un solo uomo o una sola donna all'inferno. Quindi tutte le rivelazioni del santo, del devoto, del visionario, lasciatele perdere. La Chiesa non lo sa e non lo saprà mai. Mentre la Chiesa sa se ci sono delle persone in paradiso, questo sì che lo sa. Difatti, quando proclama uno beato o santo, la Chiesa si impegna a dire questo è un cristiano esemplare che è arrivato a destinazione, è un santo, è uno che sta in paradiso. Ma non può dire di nessuno, lo so io, quello è andato all'inferno. Quindi se non lo sa la Chiesa, la rivelazione dei Vangeli, meno ancora quelli che sfrottolano in giro. Allora, Dio è amore. Allora si fa questo discorso, io me lo sento dire spesso. O un Dio amore che esclude l'inferno, oppure l'inferno che esclude Dio amore. Non è possibile che conviva un Dio amore con un inferno dove c'è un suo figlio che non si realizza. Noi potremmo dire, se fosse Dio che crea l'inferno, potremmo dire, è strano che un Dio amore odi una persona, ma lui non odia nessuno. Sarà odiato da quello lì che non vuole entrare nel regno di Dio, ma quella è un'iniziativa dell'uomo. In altre parole, come si trova Dio di fronte all'inferno e a un ipotetico uomo o un'ipotetica donna che eventualmente andasse all'inferno? Uno o un milione o tanti miliardi, gente che va all'inferno. Dicevo altre volte, se tu che sei un padre o una madre di questo mondo, quindi molto più limitato rispetto al Padre Eterno, fossi su in paradiso, lasceresti fuori uno dei tuoi figli dal paradiso, fuori per sempre a star male, per cattivo che un figlio sia stato, dice, beh, vieni dentro. Perché se tu stai fuori e stai male, io dentro in paradiso sto peggio di te che sei all'inferno, perché io ti amo e siccome so che stai male, sto male anch'io proprio perché c'è un legame d'amore. Ora Dio è messo in questa situazione. Dio ama infinitamente tutte le sue creature, tutti. Ora se un figlio gli andasse a male, avrebbe un contraccolpo di dolore, un boomerang che gli torna indietro, tanto grande, diciamo infinito, quanto era l'amore che lui aveva per quella persona lì. Ossia, il paradiso diventa per Dio una specie di inferno, perché ha tanto amato e continua a amare quest'uomo, e vedendolo soffrire, soffre tanto quanto lo ama. Allora, Dio non ha interesse a mandare nessuno all'inferno, certamente no, e chi ci va dà dei grossi grattacapi a Dio, come se voi avete un figlio che sta fuori casa, vive sbandato, vive sotto i ponti, state peggio voi a casa a pensare a questo figlio che neanche lui che va per i fatti suoi, perché avete un rapporto d'amore, perché è tuo figlio e noi siamo figli del Padre Eterno, questo è sicuro. Quindi pensiamoci su un po' prima di buttare la gente all'inferno. Il Padre Eterno li butta giù con una disinvoltura, ma siamo matti. Non li butteresti giù neanche tu i figli all'inferno, perché dovrebbe buttarli giù il Padre Eterno, che è infinitamente migliore di te. Però l'inferno esiste per chi non vuole stare con Dio e vuole stare fuori. Ma ci sarà qualcuno? Non lo so e non lo sappiamo. Io spero di no, ma dire io spero di no non vuol dire no, non c'è nessuno, perché io non lo so né se ce n'è uno, né se ne sono tanti, tantissimi, e neanche se non c'è nessuno, ma non lo sanno neanche gli altri. Ecco, tiriamo a concludere. Gesù nel Vangelo ci ha detto: io sono venuto in questo mondo per salvare tutti e perché nessuno vada perduto. Ci ha detto questo, per esempio, il Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare, per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Gesù dice: non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Vangelo di Matteo capitolo 9, Gesù dice: non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Siccome di giusti non ce n'erano, è chiaro che non poteva venire a chiamare i giusti, siamo tutti peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, come ci ricorda l'Ave Maria. Ci ha amati quando noi non lo amavamo, addirittura quando l'abbiamo ammazzato. Noi l'abbiamo ammazzato, in cambio lui ci ha dato la sua vita di figlio di Dio, la sua vita eterna. Quindi, mentre noi eravamo peccatori, l'abbiamo odiato e ammazzato, Cristo è morto per noi. E la lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 5, riporta queste parole. Dio dimostra il suo amore per noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora, Dio ha comandato a noi di perdonare 70 volte 7. Io mi meraviglierei se Lui non perdonasse 70 volte 7, ossia sempre. Dio ha perdonato sempre e perdona a tutti. Bisogna vedere però se il peccatore questo perdono lo accetta o lo rifiuta. Il problema è dalla parte dell'uomo, non dalla parte di Dio. allora vedrete che non ci sono contraddizioni tra un Dio amore e uno che eventualmente va all'inferno, perché non l'ha mandato Dio amore, ci è andato lui per dispetto nei confronti di Dio che lo ama. Bene, la Bibbia dice che verranno cieli nuovi e una terra nuova dove si vivrà finalmente come Dio comanda, ossia dove tutto funzionerà alla perfezione. Vi tralascio tutte le critiche dei filosofi e dei sociali di questo mondo e diciamo proprio concludendo quello che vi avevo già accennato prima. Il corpo dell'uomo, sia la realtà completa, l'uomo, la donna per capirci, è destinato alla gloria, così anche il mondo delle cose, il mondo materiale, sarà oggetto di redenzione e di salvezza e parteciperà alla libertà dello stato glorioso che avremo noi uomini in paradiso. Ho detto prima, si legga, ma non solo, cito un passo, Romani capitolo 8 versetti 19-23. Dunque l'universo materiale e l'uomo non sono realtà separabili, noi uomini siamo fatti di materia, l'uomo Cristo Gesù è fatto di materia, il suo corpo è un pezzo di terra che è andato a finire nella gloria in Dio dove è andato Gesù Cristo. Quindi la materia seguirà la risurrezione e la vita che continua. Vi ho detto e lo ripeto perché è importante, la stessa messa ci dice queste due cose diventano Cristo risuscitato e vivo, quello è già un anticipo di dove andrà a finire il mondo delle cose, guarda lì durante la messa, due cose diventano Cristo, tanto è vero che lo adori, lo mangi dicendo questo è Gesù Cristo risuscitato e vivo, faccio la comunione, faccio l'amore con Lui. Allora, l'uomo non raggiunge Dio uscendo da questo mondo, ma inserendosi e collaborando al disegno del Creatore. Il Signore ci ha detto, voi verrete in paradiso se prima vi impegnate a rendere più abitabile la terra, quindi impegniamoci qui, perché è qui che stiamo lavorando, perché anche la terra, anche quella materiale, partecipa alla risurrezione, diventa terra da paradiso. Perché anche noi, i nostri corpi, lo ripeto per la terza o la quarta volta, siamo dei pezzi di terra diventati carne e ossa, d'accordo, ma sempre terra, che diventeranno corpi di paradiso, come quello di Cristo. Toccatemi, palpatemi, io non sono un fantasma, io ho un corpo, sono un corpo vivo, toccatemi, io ho carne e ossa. Leggo in conclusione uno scritto di Karl Rahner, un grande teologo, forse il più grande teologo del secolo appena passato, e parla della risurrezione di Cristo che è già operante qui nel mondo e molti non se ne accorgono. La risurrezione è come il fuoco che sta già bruciando e purificando il mondo delle cose, il mondo delle coscienze, il mondo della società. Ascoltate. La risurrezione di Gesù è quasi la prima esplosione di un vulcano a indicare che nell'intimo del mondo già arde adesso il fuoco di Dio, che è lo Spirito Santo, e che avvolgerà ogni cosa di una beata incandescenza nel suo fulgore, tutto immerso nell'amore di Dio, nel fuoco di Dio. Già sono liberate dal centro e dal cuore del mondo in cui Cristo risuscitato penetra scendendo nella morte, le energie nuove di una terra trasfigurata, già nell'intimo più riposto, più nascosto di tutto il reale, cose, anime, menti, eccetera, la caducità, il peccato e la morte sono già stati vinti da Cristo. Si tratta per noi di lasciare entrare Cristo che vinca la nostra caducità, la nostra morte, il nostro peccato. Occorre ancora solo il breve intervallo che noi chiamiamo la storia dopo che è nato Cristo, perché universalmente, non solo nel corpo di Cristo, dove la cosa è fatta e finita, per tutti venga a manifestarsi in noi ciò che in realtà è ormai accaduto in Cristo e che sta passando di uomo in uomo attraverso sacramenti, preghiera, grazia di Dio.